provando, sai? Sì, anche tu. Stavo provando adesso quando c'è il coltello mollato. E non metti fatto di saldarlo, eh? Ai ai ai, lo gabbo. E adesso va bene, l'ho saldato. Perché ti ho fatto il cavo, sono dimenticato di saldare quello di giù. Uh-huh. Ah, quindi ti hai portato il campo giù, così è? Bene, adesso vai. Va bene, sì. Ah, però ti conviene al monte, Ofra. Cazzo, che vanno che una cannonata vanno. Siccome hai comprato una boomerang e te la piazzi. Ma chi ce l'ha è contentissimo, ce l'ho avuta pure io per un periodo, ero contentissimo. Se la buona in chi viene andare a Gabbisciuria con la boomerang, spara che cosa amara. Ce l'ho qua, ce l'ho da qua, l'ho tolto adesso per provare questa. Ah, no, già va bene. Ah, prima ero con la boomerang. Qua se la metti al monte, pom pom, beh. Quella grande, mi, non quella piccola che non si fa un cazzo, quella grande. Quella grande, quella che ho io è... 2,75 metri, capito? E sarebbe la 3 metri, dai. È una piccola, è la mezz'ora, dai. Guarda, tutti quelli che l'hanno messa sono stati veramente soddisfatti. Mezz'onda, 5 ottavi. Scappa. E mezz'onda è la... No, mezz'onda non è mezz'onda. Non me lo ricordo la bumera in quella grande, quant'è? Boh. Sì. Dovrebbe essere 5 ottavi. No, no, non è 5 ottavi, no. Quello che ho io è 2,75 e c'è lo stilo di mare che non è massa, tipo lo stilo di coro, di crusta nera, una cosa del genere. Che si regola con lo stubo sotto, c'è il radiale, così è. Cappa, invece questa che ho costruito è senza radiale, ed è quasi 8 metri, dai. Vabbè, quella è diversa. Guarda, se metti quella lì al monte spari forte. Ce l'hanno diversi CB, ce l'hanno e sono contenti. La verità, sono molto contenti. E adesso, no, c'è anche la cosa. Ma che leggiamo? No, ma non fa 5, c'ho capito. E va bene lo stesso. Adesso ho voluto fare questa qua. Con la canna da pesca l'ho messa in campagna, perché quella che c'avevo non rendeva molto. E capa, se trovi una ringo è meglio anche, perché è più leggera, eh. A mandava 5 quel tetto, tira voci, eh. Ma cosa, quella ringo arriva e tira giù la palla, quindi mi mira. Mandava un carruccio. Ma la mia sta andando. In città, se non metti qua in campagna, no. Ma che pare palle esce. Boh, non lo so. Guarda, questa è una costruzione, è quasi 7 metri, eh. È stata ricatta, regalata, fatta ad opera d'arte. Stazionaria, nuda, proprio una cosa mobile. E già va bene comunque, dai. E poi questo c'è, questa qua è tutta la RG58 213, eh. Per caricare il ballo è a 2,13, l'impedenza è a 2,13, quindi posso dare parte del fuglio. E a voi, a voi, ma non è RG58 il cavo, se no ti si va dando due morso. RG58 è la bobina e poi il ballo è a 2,13 per la potenza di linea, e l'impedenza l'ho fatta a 2,13, e la discesa è tutta a 2,13. E allora vai alla grande, vai. Sto uscendo con 12, 25, 50 modulati, non sta saldando nulla, è ghiacciato da parito, cioè sta stazionario non è anche perché sono sotto strumenti, capito, quindi stazionario non c'è nessuno. Dopo che l'ho fatto, modulati 60, dai, 55-60. Sì, già va bene, già, a voglia. Ah, ti conveniva, visto che eri in campagna, a metterti la mantova 5. Troppo pesante, cara, troppo pesante, è un casino, è per me, non so salire qua. E io vedo che non mi fida se riesco a fare questo tetto, quindi l'ho fissata la ringhiera adesso, è tutto lungo. E lascio così, per campagna già va bene, non sono usato una furia. E la voglia va bene, va bene, in campagna puoi fare quello che vuoi, ma ci sono altri inquilini che la campagna. Ma infatti ci stanno con due parti sul freno, fino a due parti sul freno, ma ti piace, non disturba nessuno, proprietà privata, quindi per loro di più. spiccata, ti potevi fare un finto qualcosa. E metti pure una dragamitura e lo mettevi sopra un coso, sopra un corrinciamento, bene, bello ancorato a terra. Vai che ce n'è. Ma vedo che ti è stata bene questa che ho fatto. Avevo dalla camera testa di quella inglese che non ho usato, perché quella era inglese fissa, ma avevo due cometri, l'ho tagliato, li ho uniti assieme, poi quando sono trovato un tubo liquido di acqua, anche cucini di su grigio, o NDH. Sì, gli andava. Però bene, non è dove, ma quello è anche un ruccio. No, già va bene, già va bene. No, io ho questa ringa qua, ma va bene però, Ma qua sì, Santiago 9, 9, 5 sono arrivati, però devo considerare la tua, che io sono in un fosso, capito, ma la reazione poi arriva molto meglio, perché lui è una più alta. E 9.20 arrivo, la Claudio. Io non lo so quando arriverò adesso da lì. Ma non quella fronte non è cosa tua, anche perché non li potevi dare fatti da te. Ho capito, ho capito. Ah, con questa ragazzo, con questa va, è una gannonata, anda. No, già sono contento la verità, me l'hanno regalata, Però funziona bene. Io, in città va bene a tu, ma qua non andava bene, io ce l'avevo, l'ho regalata, non ce l'avevo. Poi sono contento, però mi rendevo anche, capito? Non dava la potenza, andava anche più negativo, capito? Questa qua invece di quella della potenza di due, non sarebbe venuta. No, no, io c'era la mia... cioè, la mia già va. Ma io ti ascolto bene qua. Se tre note di fare quando? Sì, 995, a voglia. Beh, quindi qua, sto uscendo da poca potenza, Non so, sto uscendo 15 watt, 30 watt, modulati. Quindi posso aumentare ancora, non lascio l'uscito. Va la grande, va. Bravo! Bravo. Io stavo cercando anche uno di quei generici da 150, di quei due 150, sto trovando. Boh, non lo so. Io ce l'ho, ma me lo tengo, perché poi me l'ha dato una persona, me l'ha dato. Poi tempo fa ci tengo tantissimo. No, io ce l'ho anche, ma non so dove ce l'ho buttato, perché ce l'ho due a bere a casa. Adesso quando salgo sul soffitto, perché c'è un casino. Kappa, dai. No, io ce l'ho e me l'ha dato una persona, me l'ha dato e... ci tengo tantissimo, ci tengo, lo uso, lo sto usando la verità, e ci tengo tantissimo perché me l'ha dato lui, ma ce l'ho più di 10 anni, ce l'ho e non l'ho mai data a nessuno. Ma io ce l'ho con una volta di 250, quella che devo salire il soffitto, perché sicuramente la lasciamo di sopra, siamo a tutte le radio, c'è un casino. Poi questo era un mediano di ferma, era la radio, capito? Ho dovuto pulire, sistemare, comunque ho visto che già funziona ancora. Sì, funziona, sì, non c'è nessun tipo di problema. L'attacco del processore si sente? 1, 2, 3, guarda, 1, 2, 3. Che si sente. E lo stacco, tac, tac. La voglia. Ok, dai. Io già lo so, mi vuoto, ma vedo a dormire perché sono stanco, cazzo, sto sempre facendo. Poi stamattina presto mi sono sollevato un po' l'antenna, mi sono sollevato. Ma non ha più gana. Va bene, ciao, noi, grazie del controllo, grazie di tutto, sempre ha cambiato tutto, salto al QRA e se coincide stasera, saluto anche gli amici che saranno in ascolto sicuramente. E mettere le ti dai, grazie ancora, ciao. Oppure, ciao, ce la risentiamo, ciao. Lucca, che c'è, ah, pensavo che avanti, ciao, che l'ho girito, ben sentito. Grazie, ti sento chiaro, perfetto. Sì, che sta facendo bella Puglia. Come mai hai detto tornado? Tornado? Ah, ma tornado con 34 canali, hai detto. Per pulita perfetta, a voglia. A voglia cresce bene. Cresce perfetto, esci. Una bomba. Come questo apparato che ho io. Che sta crescendo benissimo a voglia, sei perfetto, sì. I segnali di radio sei a posto. Ci mancherebbe. Sta crescendo veramente forte. 20 watt esce questo apparato qua. 20 watt, tondi tondi. Ah, l'87 della Midland questo è. È l'unico che esce così forte, a parte con le 4000, ma già esce, è l'unico che esce forte. Degli apparati sulla 27 che c'ho. Il tornado, vabbè, il tornado ormai c'ha più di 20 anni, quindi ormai bisogna che li cambi i trimmer. Per forza. C'è la mia sorella, c'è la Giovanna. Anzi, lui sta usando il Codex 4000 per l'esattezza a casa sua, ma adesso momentaneamente fermo perché devo passargli i cavi come si deve e fare una bella stazioncina. Capito? Io mi sono preso altri apparati, c'ho di qua, a parte l'omologato, c'ho due portatili marini, mi sono preso, e un VU da stazione mobile, capito? Cinese, esce perfetto, c'è 10 watt l'uscita, esce una bomba, esce. Ah, in mezzo al casino non sei entrato. Ho capito, no, io sto facendo cosa, se magari sarei anche entrato se ero a casa, ma ero fuori, stavo facendo dei lavoretti fuori, quindi per tutta me la casa buttato. Lo so, ho avuto solo polemiche, a volte invece c'è aria bassa, cioè in pratica non c'è più nessuno, stai 3-4 giorni con una settimana con cane, 5 giorni, poi entrano tutti, eccetera, eccetera. Lo so, già c'è gente ogni tanto così. Ma poi già sparisce, non è che fa uno o due giorni e poi sparisce, non ti preoccupare. Lo sai che ogni tanto c'è qualcuno e quindi bisogna, come si dice, pazientare, diceva quello lì, lui Iuia. Già va bene. E tu parli in giro, Buon Antone. Ciao Anto. Io voglio essere scendo bene, sei perfetto. Ciao Anto, avanti, buonasera. E buonasera, con chi stai parlando? Con il figlio di Gianni K2. Ah, capo, salutoni, mi senti da Muros? Il capo, un po' bassino ti sento io. Ti faccio un po' più forte, non lo so perché. Che quando ti sto arrivando a Muros, ecco siete, sono peggiorato, che ha tagliato durante una bambina di peggiorato, non mi comprendo più nulla, la verità non capisco più niente, avanti Antone, dai, dai io faccio bianco, perché mi hai sentito, e faccio un altro pisolino, ok, continuate, ciao. Che bello ti sei? Cosa hai mangiato? Pesante hai mangiato? Sì, un paio di bottiglie di birra mi sono bevuto. E ti fai solo un paio di bottiglie di birra? Le bottiglie di birra non sono nulla. Bella mettere 7-8 lattine. Allora sì che cominci a avere un sonno. Mi sono venuto a prendere la mattina poco fa io, mi sono più sveglio di prima. Vabbè, dai. E cosa vuoi fare? Ciao. Vabbè, per dire, due bottiglie per dire, poi non è vero. Ok, dai, continuate. D'accordo, continuiamo. mi sto sistemando adesso tutti gli apparecchi, tutti gli apparati in fila. Ecco, uno a fianco all'altro. C'è l'omologato qua, lo metto qua a fianco, quello che avevo comprato, che sono 98 euro, grazie, per cambiare. Poi c'ho la 87, il 2009, e sono a posto. Non ci ho lasciato i telefoni, di quelli i telefoni vecchi, tutti dentro una busta, so. Ok, continuate. Via, ok, già va bene, già va bene. Avanti, Claudio. E il 2002 MK3. Devi cambiare il relè, c'è il relè dentro, quello grande. Devi cambiargli quello, una volta che cambi con il relè, non funziona subito. E io c'ho quello, c'ho anche l'altro, quella transistor c'ho. C'ha quattro finali, 4 e 22 montati, c'ho il W2001 con la transistor. E poi, vabbè, l'altro l'ho dato a coso, a fargli cambiare il relè, adesso se andiamo su, se riesce a buscarlo, te lo faccio cambiare così funziona attorno, l'altro W2001, uguale a quello che c'è tu, preciso identico. Mi sono conservato le valvole, ne ho 6 valvole di quel lineare lì. E c'ho quello io infatti. Ce l'ho qua. Ho bruciato un finale solo perché è stato un imbecille io. C'avevo l'antenna della V e della U piazzata sotto la mantova, mi ha fatto rientro e mi ha bruciato un finale. Gli altri sono tutti a posto. Adesso appena c'è un po' di tempo e voglio rifarmelo, me lo faccio. Il cambio finale e torna come prima. E me lo conservo. Poi l'altro, vabbè, l'altro non è mio, quello a valvole, l'avevo dato a Fabio a sistemare. Adesso appena lo sistema. E non penso di avere una portante. Brecca. E K positivo. Avanti Breck. Ciao Claudio, ciao Antonello. Ciao Antonio, se l'ascolto. Buonasera a tutti, Marco. Ciao Marco, ben sentito. Ben escucito. Di nuovo buonasera a tutti. Anche oggi giornata casalinga, tanto andare. Non si può nemmeno andare a fare un giro a Pro Torres, non sia che ti dicono che stai cambiando comune e quindi senza giustificato motivo non si potrebbe uscire, non si può praticamente, solo per esigenze lavorative, eccetera. Bene, sì, Claudio sta arrivando bene qua, è molto chiaro di modulazione, molto chiaro, è un Santiago di 8, bello pulito. Pomponio, vabbè, oggi sta uscendo bene, oggi. Ah, oggi solo, ma a Sardegna. Positivo, positivo, già va bene. Voglio apparati che ce ne abbiamo tutti. Anche Marco c'ha tutto l'armadio pieno di baracchini. No, ma non è un armadio, è una, come dire, è una cosina bassa. Magari faccio un armadio, molte cose le ho anche date, Antone, già lo sai, per levare un po' quella roba di 20 anni fa, 30 anni fa, insomma, quello che potevo dare l'ho dato. Claudio, potresti contraccambiare il segnale? Sono con 10 watt utili. No, quello è il beep, quello è il beep fisso e non si può togliere. Questo è un superstar, perdonami, questo è un president col microfono di serie. Ti volevo dire Claudio, però dubito quello Smitter che sia affidabile, perché bene o male con tutti gli apparecchi qua arrivi tipo senza lineare sei intorno all'8 e mezzo, no? O giù di lì, però mi pare un po' troppo alto il mio segnale da te, sicuramente è un po' troppo generoso quello Smitter, dai. Non arrivo così nemmeno da Claudio, che praticamente è a portata ottica, dai. bisognerebbe fargli una tarattolina. Ma addirittura Bombolo arrivava solo a Santiago 7, com'è possibile? Una differenza così notevole. Il 2009 ti piace? Ce ne sono in giro 3009 a voi. Sì, c'è un venditore da eBay italiano, tale Radio Smitter, venditore eBay Radio Smitter, che attualmente lo vende nuovo ovviamente, non... L'importante è chiedere la versione Ranger, la versione della Ranger Communication Malaysia, ce l'ha, ne ha due versioni, credo che abbia la vecchia versione, che non so da dove abbia tolto, e poi la versione che vendono attualmente, cioè aggiornata, non roba di 30 anni fa, roba recente, capito? Vai Claudio. Sì, vedo di apparati, se ne vuoi in giro, 2009, Superstar 360, è pieno in giro, io ce l'ho 2009. Io ho messo la mascherina, cioè in pratica nel 2009 gli ho messo la mascherina del Tornaro, invece la mascherina del 2009 l'ho messa con le 4.000 che mi aveva regalato Marco. In pratica è come se tu vedi il 2009, sono i stessi apparati, cioè 200 stato un canali, in più c'è l'eco, cioè, e c'è la mia sorella, l'ho prestata lì, figurati, gli ho lasciato il Tornaro normale, quello che è 2009, e in più il Coles 4000 con microfono Salelta, quindi figurati tu. Chi è avanti che sta provando? Oh ciao Antone, no, non mi avevo sentito, l'ho acceso e non me ne neanche accorto che ero sul 10. Ciao, però ben sentito, saluto, ben resuscitato, diceva quello. Ma stavo cercando l'eco, non lo trovavo a Tuglielo, mi stavo girando, stavo provando l'eco per Tuglielo e non lo trovavo. Perché adesso se non vedete per uno dei baracchini sta diventando rimbambito, quindi non ti ricordi più come funzionava parecchio. Capito anche a me? Figura di due. Non so, ma chi c'è in ruota? Aspetta che cerco l'eco, se lo trovo, aspetta. Mi sposto un attimo nel canale, devo cercare, adesso sono adattato e non accendo. D'accordo, avanti Marco. Eia, ciao Luigi, ben sentito. Segnale tra 9 e 9,5, il tipico tuo segnale, dai. Un eco anche discreto di fondo. Vabbè, io rilancio direttamente a Claudio, vado bene, quindi rimango un po' in ascolto, più che altro parlate voi, dai, che mi devo piazzare il computer per ascoltarmi un po' di VHF con l'SDR. Vai Claudio. Capaccia, si è spostato un secondo cosa, Luigi. Marco invece stava facendo l'omba, i miei mi stavo sistemando tutti gli apparecchi, mi mancano solo i due portatili, quelli del PMR che ho prestato, il V5 di Plus e il Plus. Ci ho sei portatili, diciamo. Adesso ci metto i marini e poi ti faccio la foto che la mando. Sono rientrato, D'accordo, avanti caro. Adesso l'eco non c'è. È positivo, dai, lo... era da tanto non l'accendevo e non lo ricordavo più neanche qual era il pomello dell'eco. No, ciao, anche Claudio l'ho sentito prima. No, ero circa 1 watt, 2 watt di portante prima. Adesso ho girato i watt appena in più i suoi, dai. Penso che ti arrivo anche meglio adesso. A lui. Oh, Cianto. E capa, mi ti stavo salutando, ti ho sentito, ti ho salutato. Parroggio, dai, stavo provando questo apparatino che era tanto non accendevo e non mi ricordavo come erano le funzioni. E non mi ero reso conto che c'era neanche nessuno sul 10, capito? Acceso e stavo provando. Capa, succede, dai. Quanti arrivo a farla, bene? Sei Santiago 9 qua, su questo apparato. Già va bene, dai, già va bene. Positivo, dai. Oh, qual era? Mi sfugge il nome adesso giù a muro, so Claudio, mi ascolti meglio adesso? Vabbè, continuate, io riprendo dopo più tardi. Sì, a regola, Smith, intanto già c'è il trimerino piccolino, già lo riconosci subito. Allora sei tranquillo, poi del resto già funziona bene l'apparato, a voi. Avanti, Gigi Vulcano. E guardo qual è il... il crime su un coso che ce l'ho segnato, se ce l'ho segnato ancora. Ti dico qual è il crime che ti puoi regolare ascoltando quelli di Sassari, tu sai più o meno il segnale di ognuno e te lo puoi regolare, capito? Ti dico qual è il crime se... perché al volo così non me lo ricordo, comunque te lo guardo e te lo dico, io non so ricordo se era il 7, il VR7, adesso te lo dico subito, è il VR1 comunque, dai, il VR1 è il crime, dovrebbe essere in fondo, proprio in coda, vicino dove entra il cavo dell'antenna o della corrente, se non mi ricordo di preciso, comunque lì in fondo è il VR1 è. Aspetta un secondo, sto... sistemando la camera, sto cominciando a fare un pochino di pulizia agli occhi, la giubbocca è dopo a sopra il tavolo, che non c'entra nulla, così mi faccio un po' di spazio, 2 minuti, ci arrivo subito. È positivo, no, quello è diciamo, quanti watt ti sta dando quello lì, normale così, quanti watt c'hai? Sì, conosco a Rocca, lo conosco anche di persona, in verticale, ci siamo conosciuti lì a Bari, a Albero Bello, dai, lo conosco anche di persona quando facevo i raduni che ho fatto. Conosco benissimo, lo conosco da tanti anni, non è che lo conosco adesso, ci conosciamo da tanti anni in radio, dai. Conosce benissimo a me lui qua in zona di Sassari e proprio benissimo conosce a me, dai. Niente. Comunque stavo dicendo quell'apparato lì, anch'io lo provo 3 watt, lo metto a 3 watt perché c'è il crime dentro, il VR13 lo abbasso a 3 watt, capito? Per un semplice motivo, se gli attacchi una scarpetta lavora meglio con 3 watt che con 5, capito? Se no sale anche di più di 5 quello lì, E con la scarpetta c'è una radio più bella e tutto quanto, non ti satura e ti dà una bella radio forte, capito? Non più di 3 watt, ma stiamo proprio esagerando 4, proprio esagerando, capito? E ti va benissimo, se devi attaccare una scarpetta ti esce meglio, c'è una radio più bella e più è anche forte, va benissimo su... dico, non so, secondo che te l'ha dato, perché io quando mi entrano in mano a me li taro sempre sui 3 watt, 3-4 watt, dico la verità. A positivo, sì, dai. Già non ne ho 3, io ho M300, sì, basta cambiare i collegamenti del microfono e va bene. No, quelle ultimamente tempo fa ne ho riparato diversi di quei baracchini lì. Ne ho fatto a un ragazzo che abita a Torralba. Qua è Torralba, Bonnannaro, della verità abita, stavo confondendo io a Bonnannaro, e poi l'ho fatto un altro a Coso, che poi se l'ha venduto a Massimiliano di quello lì, e poi ne ho qualcuno io dei miei, capito? Anzi, lì si può fare un bel lavoretto su quell'apparato lì, senza andare di fatti, solamente togliendo un integrato ti aumenta di radio e di picchi di modulazione impressionante, solo togliendo un integrato, in positivo, no, quello l'ho riparato, dicevo, ho cambiato tutto, me c'era tutto bruciato, c'aveva finale, prefinale e più quello di audio, di ascolto, dai, era tutto muto, ne usciva e ne riceveva, muto completamente, gli ho cambiato tutte e tre, li ho dovuti cambiare per farlo funzionare uno, gli ho cambiato tutte e tre e ha funzionato, e poi l'altro ho fatto lo stesso lavoro più o meno, capito? Quasi lo stesso lavoro, è positivo, no, io ce l'avevo in camion, tuo padre quante volte mi ha sentito, mi ha ascoltato, e anni fa io ce l'avevo in camion, però c'avevo il tornado, io quello 40 canali, però ce l'avevo tutto modificato, e diciamo tutto fatto bene, diciamo, la mascherina con lo sponsor mio, mascherina tutta, c'è lo squalo che sta acchiappando un calamaro con la scritta mia Gigi Vulcano, poi tutti i pomelli sono trasparenti, tutto illuminato, i pomelli, tutto, io me l'ho fatto ben fatto, dai, bello, ce l'ho tuttora, ce l'ho, capito, ce l'ho tuttora, quello ce l'avevo in camion, che era una bomba in camion, perché c'ha... una buona ricezione e poi viaggiando c'erano molti camionisti e non pigliava sbratteri, capito, rispetto al 48 e via dicendo. Solo per quello era bello, però c'era una buona ricezione. Quello facevo propagazione con Rocco che hai detto tu, quando partivo da Sant'Antioco andavo a caricare sale e mi accompagnava sino a Oristano, a volte da Sant'Antioco ci spostavamo di canale, immaginate un po', sto parlando indietro, periodo di propagazione, parlavamo per ore e ore, capo. E guarda che quel Rocco ha superato gli 80 anni da parecchio, non è un ragazzino. Ti sto dicendo che adesso mi sembra nel 2017, no aspetta, sto confondendo, io sono andato in pensione nel 2015, forse nel 2014 o 2013 abbiamo fatto una grande festa lì Albero Bello e gli hanno fatto la targa d'oro, una bella targa a lui per essere uno dei più anziani modulatori della frequenza, aveva quasi 80 anni all'epoca, capito, aveva quasi un'ottantina d'anni, capito, è grandetto, però se ne tiene bene perché è magrolino, insomma se ne tiene bene, dai. E beh, quegli apparati lì, oggi sono dei vecchi apparati, ma vecchi, se tu anche te lo danno vecchio, quello lì, lo fanno pagare un casino di soldi, perché ha preso un valore, e tu dici, ma che apparato è? Eppure ha preso questo valore, questo ce l'avevano tanti anni fa, i pescherici, quegli apparati lì, capito? Ce l'avevano i pescherici, perché quell'eco è suo, originale, era nato così già da tanti anni fa, quell'apparato, infatti è Colt, l'eco Colt che fanno al 48, è copiato da quello lì, capito, da quell'apparato lì, perché quello di lo sapeva fatto su, hai capito, tu quello usato, vecchio, però funzionante, lo paghi anche 1000 euro, anche 1200 euro, chi lo vuole, proprio chi ne è appassionato, che lo vuole avere, perché di meno non lo paghi quell'apparato lì, capito. GSK o cosa? Ma della presidente, questi che gli ha dato dei baracchini. Ma positivo, no? Io pensavo qualcosa, perché il GSK un po' è come il Colt, capito? Questo per esempio è un GSK della presidente, questo sto operando io adesso in questo momento, ed è un po', c'ha un po' di dentro, è fatto, c'ha proprio dei modulatori, c'ha già il doppio modulatore fatto, è già andato da sé, capito? Si assomiglia un po' al Colt, capito? Si assomiglia un po' a questo, e quanto è un tornado, è come il tornado, come quello che stai parlando tu adesso, la grandezza è quella, è positivo. No, ho riparato due stamattina di 48, dai. No, li ho fatti per un amico che li mette nei trattori agricoli e glielo ho fatti stamattina due. C'erano problemi, però uno gli dava problemi perché gli avevo fatto 120 canali e gli stava dando, si incasinava e non si trovava, non trovava, loro vanno sul 40 e poi non riusciva a parlare uno con l'altro perché forse era sul 40 sopra, non 40, sul canale di sopra o di canale di sopra e non riuscivano a andare nel canale normale, capito? E allora stamattina gliel'ho eliminato, dai, gliel'ho fatto nuovamente a 40 canali e gliel'ho tirato sino a 20, sono riuscito a tirargli quel 48 sino a 22 watt addirittura, l'altro 12 watt gliel'ho tirato, due gliel'ho messo a posto, dai, gli ho messo a posto lo smite che non regolava bene, che era basso, poi si accendeva la lucetta delle stazionarie, ho regolato anche quello lì e niente, infatti sono lì, mi serve ritirare e niente, è positivo, no? Io già ne ho di quelli lì, ne ho, neanche mio figlio, ne ha tre addirittura mio figlio di quelli 48 modificati, uno ce l'ho qua, gliel'ho fatto bellino, tutte le luci gliel'ho fatto diversi colori, tutto bello illuminato ed è, se lo metterà in camion, fa. Però adesso c'ha l'altro, ma ne ha tre a lui di 48 che se li mette in camion, però adesso uno ce l'ho io qua, proprio quello, il top del top ce l'ho io qua, che ne ho. E poi c'ho il mio 48 che ad opera stavo in camion, sempre modificato, mi pare l'hai ascoltato qualche volta, quello è, esce fortissimo, è positivo, guarda, modificato, esce bene quello che c'è adesso, quello c'ha, perché quello c'ha il 45, c'ha i canali pure, giusto? Ah, positivo, perché se no costa meno fare quello lì, modificare quello ti costa, con la scheda ti costa di meno, quello che c'è adesso che stai parlando, ti costa meno del 48, lo sai, è positivo. Ma adesso se vuoi provare, provalo, vai su questo canale stesso, vai sopra, prova ad andare sopra se lo vuoi provare, sempre su questo canale, vai sopra, rimani qua sempre, no, non ci cambia niente, sul 10, e sì, sul 50, e non ci sei andato, non so se ci sei arrivato, ma non c'eri, sei qua. Questo è il gemello senza essere modificato. Luigi, ma hai sbagliato banda? Positivo Marco, torno subito, ritorno subito. Ehi, sto ascoltando, ciao, ciao Luigi. Attenzione, canale 10, cambio. Vabbè già. Attenzione 10 per un controllo. Avanti il controllo. Ehi Antonio, ciao, buonasera, Gianni. Ciappa. Ah, c'è abbastanza forte qua. No, io sono a casa, dai. Vabbè, era solo per un controllo che stavo controllando una cosa. Ci sentiamo più tardi. Ciao carissimo. Ciao già, via. Io sempre bene sono andato perché ho fatto un cambiamento. Benissimo Antonio, forte e chiaro. Lo scala sono. Scappa. Sì, ho alzato l'antenna. E di quanto? È di un metro quasi. È tirante, immagini? No, cosa tirante? Bene, bene, dai, ti lascio, ci sentiamo più tardi, dai, che sto facendo roba. Ti ringrazio per il controllo, ciao. Cioè, il mio tirante è che faccio lungo, c'è grosso, faccio, il bomba è grosso, ok, ciao. Chi sei qua? Prova, eccolo qua. E avanti. Ah, qua sei Antonio. Sto facendo la prova di... se mi sentivo, io. Va bene. E passare la serata, ascoltare, se no... Cappa. Comunque, pure tu sei a fondo scala fisso, e qua adesso. Siamo troppo vicini a tu. Troppo. No, troppo no. Siamo comunque, sì, troppo vicini, dai. Eia. Mamma mia, c'ho la barba lunga, sono ancora in pigiama, non ho fatto niente. Ma io non sono uscito per niente oggi. Tutta la sera aggucato. Ehi, infatti, dopo cucino, tanto dove vuoi andare, non ti puoi cambiare di comune, non puoi andare a Platanona, a Protorre, se non sia che ti aspettino i vigili di sorso al varco o di Protorre a farti il verbale. Se non è giustificato motivo non ci si dovrebbe spostare, mi pare, da comune a comune. È tutto un casino. Ma ne cagato un cazzo, un po' la storia. Io me ne volevo andare un po' a Platanona. Prendere quella, come cavolo si chiama? C'ho la cucinetta, non so se l'ha mai vista, quella a campeggio. Prendere l'altra piastra, un po' di giacizzoni, un tavolino, mettere sopra e arrostire salsiccione e cose, passarmi la giornata. Ma c'è un ciatto! Cioè non c'è mai che vengono a rompermi le palle, da pure tocca accudire la piastra a capo. Ehi, soprattutto di questi tempi, Antonio, che aspettano, non aspettano altro che fare sanzioni, sì, è un po' delicata la cosa, anche perché La rotonda non ho capito, chi dice che sia di Sorso e partire in Cari Sorso? Proprio la rotonda, chi sia di Sassari? Dovrebbe essere di Sorso, però qua lo dico, qua lo nego. No, è di Sassari la rotonda, di Sorso vai al primo pettine, da dopo che sorpassi il primo pettine di Sorso. È facile sbagliarmi. Cioè, se passi dalla Budibudi per andare a Platamona, no? Per dire, sei già in territorio di Sorso. Porca miseria. Bisogna stare attenti, perché cercheranno di fare più multe possibile. Credo che prendano anche degli incentivi, così mi avevano detto, non so se sia vero, non ho la fonte certa. Cioè, più multe fanno, più gli tocca un premio. Ma vogliono presi e dati fuoco, cazzo, perché no, non è giusto pigliare per il culo le persone, ma assolutamente, non è assolutamente giusto. Vabbè, situazione delicata, magari in altri ambiti, ma se hanno fatto addirittura i vigili urbani, polizia locale come li chiama, sempre vigili urbani sono, non per disprezzare, ma hanno fatto le multe alle ambulanze che erano ferme in Viale Italia davanti all'ospedale, al pronto soccorso, perché dentro non puoi entrare perché è tutto tipo ospedali da campo. L'hanno messa lì per servizio, non per andare a giocare a carte. E i vigili urbani hanno fatto la multa alle ambulanze. Infatti c'è una diatriba tra comune e non so chi, sindaco, comune, non so chi. Una cosa vergognosa, come se quelli fossero in giro a gigionare. Io dico che sono delle tette di cazzo, sono e basta. Perché quelli lì ci stanno facendo il culo tutto il giorno. Bisogna anche dargli un pochettino di compressione, mica i cinghi si adduttano queste cose. Dopo caso che rientra, mica sta diventando difficile a me fare il servizio. E poi stanno prendendo tutti per il culo, ci stanno prendendo. Cioè, ma vedi, quasi a metà mese cambiano idea, perché il Covid va in vacanza, va. Cazzo, ci c'è gente sovvenzionata a me per queste cose. Cazzo, piglia a fare un guru. Sì, quello è il colmo. Ma il sindaco ti giustifica anche l'azione. Il sindaco dice che è pericoloso, dice Via l'Italia è la sola via d'uscita, non so verso quella che direzione, insomma è una grossa arteria, è pericoloso che le ambulanze siano parcheggiate sul lato destro. Boh. Come se non ci fossero tre corsie di marcia lì, abbondanti. Boh, vabbè. Il sindaco dà ragione ai vigili urbani, a quanto ho capito. Vabbè. Io continuo ad ascoltare qualcosina, tanto poi alle 5:30 inizio a cucinare qualcosa e la serata è fatta. Comunque mi ha deluso parecchio questo sindaco, ma si diceva una cagata, dei suoi vigili urbani, ma come fai se c'è un equipaggio massimo di due persone, perché vogliono portare meno persone possibile, c'è un equipaggio di due persone dentro un'ambulanza, cioè è un casino, cioè devi sbarellare, devi togliere, a cazzo da solo non ci puoi entrare, perché è un casino, come cazzo fai? Cioè poi hanno andati tutti quanti le cose, cioè, ma anche loro sono dei, sono farabutti sono. C'è un casino, c'è che ne manco metà basta, sono dei farabutti e basta. Infatti è un eccesso di zelo non necessario quello. Già sono, eccedono di zelo di solito, no? Con le multe soprattutto. Però quando c'è Grefaglia lì che aggredisce gente al centro storico, come è successo col venditore, capito? Arrivano lì, chi è, chi non è, non si sa chi è, questo lo sanno benissimo, è gente che staziona lì tutto il giorno, tutta la notte più che altro. Quei ragazzi che fanno casino, si sanno nomi e cognomi, ma se fossero zelanti così in altre cose, mi, per carità. Cos'è sto QRM, mamma mia? Sono gentaglia, sono gentaglia e basta, cioè. Poi, ma la mafia è nata che ci gozzi che la metà bassa, cioè. Ci devono vergognare, ci devono. Così va il mondo. Eia, così va il mondo. E tu entrando stai, insomma, perché io non... Ieri sì, ho fatto un po' di ascolto. L'altro ieri no, non ho tanta voglia, non ho tanta voglia, ci sarebbe da fare qui a casa, aggiustare roba, mettere a posto, e non me la sento, sono sempre io, seduto o sdraiato, sono un po' giù di tono, molto giù di tono, dai. Che capa, no, già stiamo entrando la sera, la verità, stiamo entrando, già è tutto ok. Pace e bene a tutti. Buonasera. Pace e bene a tutti, buonasera. Penne, calamai, tutto quello che desiderate. E allora? Libina. Sempre lamentando. Ma cos'è che c'hai, Marco? Vieni a confessarti ogni tanto, dai. Accendo il registratore. Sì, perché ci vuole tempo e per tutti i peccati. Soldi, ci vogliono soldi. Eh beh, giustamente, nella questa si accettano solo banconotte. Tutto quello che desideri, arriva un po' così di là. Facciamo un'indulgenza. Sì. Io già non ci vado dai preti, non mi sono mai confessato in vita mia. Appunto, perciò ci vuole un registratore, perché quando finire la devi fare in una settimana tutto quanto, capito? Tutto l'elenco. Ho vado da chi ci prendi. Troppo rifatti due, non ci abbiamo. La cosa più grave che posso aver fatto è le bestemmie. Il peccato più grave, molto grave. Le bestemmie a voglia, a furia dura, tipo Veneto, mi. Vabbè. Una cosa ti volevo dire, Marco, tu che sei un cultore anche di telefilm e di quelle cose lì. Tu te lo ricordi l'affare francese? No, negativo. Proprio no. È la storia di una nave che viene sequestrata. E ovviamente la prima cosa che occupano questi pseudo terroristi, che poi non sono neanche terroristi se vogliamo, e occupare la stazione radio, però c'è tra i viaggiatori c'è un ragazzino, proprio un ragazzino, no? che è radioamatore, e prima che questi prendessero posto sopra la nave c'è questa radio, guardatela, sembra che sia un culto dell'epoca, e si chiama Atlas. Per l'epoca era anche una radio, insomma, notevole, e grazie a questo ragazzino riescono a far sapere che la nave è fuori controllo, diciamo così. E c'era un grande attore, non so se te lo ricordi, Kuljak Telisavala, che è il capo praticamente di questa banda. È degli anni 70, una cosa... La nave si chiamava Transatlantico Festival. Tu non ce l'hai proprio in mente, no? Allora, ho digitato l'affare francese, ma non me lo trova come film. Come mai? Non è che è scritto alla francese, l'affaire, roba del genere. Sì, esatto, l'affare francese. Comunque tu metti Telisavalas, telefilm, perché è una serie di telefilm, una serie, dai, non so quante puntate siano, e per l'epoca era abbastanza bello, me lo ricordo sempre perché c'è questa radio, non so se sia un valvolare o un transistor, però erogava una discreta potenza, e siccome era raccomandato il ragazzino, il comandante gliel'aveva fatta agganciare a un'antenna di riserva della nave. Una bella trama, anche una bella bella radio. Ho letto le recensioni e tutti dicono ottima per l'epoca, eccellente. Non ti aspettare LED, non ti aspettare quelle cose, c'era il coso della la manopola, se non ricordo male, quella con tutte le frequenze. E così. E, Antonio credo che sia troppo giovane per ricordarlo, vero? Questo film? Non è un film, è un telefilm. Non me lo ricordo. C'è Lucia del 79 e dintorni. Avanti Brecco. Avanti il Brecco. Niente da fare, dai. Lo sto rintracciando, ci vediamo. Il telefilm. È scritto Affaire Franci. Perché la nave era francese all'epoca. Una bella nave. Chissà, adesso sarà un disarmo. Per me porno sono belli. Tanto oramai quelli lì non li guarda più nessuno, con tutto quello che c'è su internet, oramai roba sorpassata, poi si facevano vedere solo delle scene così, ma non mai la sostanza, ecco. Sì, già vedi su internet già la sostanza. Su internet sì, ma non certo sui film che davano all'epoca, capito? Erano più puritani, tra virgolette. Allora, per vedere qualcosa di spinto si doveva andare, chi c'era? Lo Smeraldo, credo che fosse, no? Sì, che erano i magoni, erano in chiave, bisognava stare attenti. Sì, di tutto c'era. Mi ricordo quando ero a Napoli, c'erano le prostitute, diciamo così. C'era anche gente che ci avrà avuto 60-70 anni, cioè non ho capito chi ci andava. E queste di lì, con una specie di minigonna, battevano. Vabbè, a Napoli in particolare, comunque, si trova di tutto assolutamente. Niente bucacciona, non lo sapevo che sia. No, in realtà poveracci erano gente che sopravviveva, ecco. Non era. Probabilmente se avesse potuto fare un'altra vita l'avrebbe fatta. E di lì si sopravvive, non si vive, capito? E quindi ci si arrangia. Marco, quel titolo. Sì, The French Atlantic Affair, quello in inglese, mi rimanda a Wikipedia inglese, solo che in italiano non riesco a trovare la coincidenza, non l'hanno inserito forse su Wiki Italia. Sì, c'è Telly Savalas, vedo vari personaggi, ma l'unico che riconosco è Telly Savalas. Stavo notando invece in varie serie TV tipo come si chiama? La Casa di Carta, Baofenga Furia Dura, L'888 in particolare, addirittura in quell'altro Black Mirror, lo stesso Baofeng, stanno dilagando persino nei film e telefilm questi agenti cinesi. È una vergogna. Per chi se ne intende sì, cioè non utilizzerebbero mai quegli apparati. Guarda invece quegli americani sono un po' più seri, non so, tipo quelli che utilizzano, non mi viene il nome, quelli gli ultimi che hanno dato, che c'è una serie, Chicago Police credo che sia, e anche quello dei Vigili del Fuoco. Se tu guardi gli apparati, sono tutti Motorola, e sono apparati, diciamo, comunque di alto livello, ma soprattutto si vedono molto bene in quello della Chicago Police. Ehi, pubblicità occulta? Ma diciamo di sì, di nì. Però hanno poche speranze, perché poi c'è l'Itera, che oramai è, come si chiama, per best, oramai, soprattutto da quando si è assorbito la Rote Spazio tedesca, si può dire che è la numero uno, capito? Tra l'altro mi hanno scritto per una nuova radio che sta su, meglio, un nuovo ponte radio che si mette sulle spalle, piccolissimo, un giocattolo formidabile. E siccome hanno detto in tempi di virus, di grande emergenza, eccetera, guarda questa radio, eccetera. Comunque ci hanno prezzi abbastanza altini, essendo professionali. Ed è un ripetitore SFR, quindi notevole. I soldi ci vogliono. Riprendi, Antu. Cappa, ero dicendo che cazzo la vasellina non riusciva a trovarla, pensavo che era sul tetto ancora, pensavo per salire sul tetto, e invece è andata all'armadio. Qualcuno che ascolta pensa male, dille che si usa anche per proteggere i dadi, eccetera, eccetera. Sì, no, la uso per l'antenna, allora sai che l'ho smontata a capo, cioè oggi ho fatto la modifica, l'ho salita un po' di più, ancora per la vasellina attaccata, come il primo giorno che l'ho messa. E Anto è passato poco, aspetta in stare che si scioglie con la tuttami. Cioè, piglia due Eva quei giorni là, aveva preso acqua e era vannuta. Per il caldo non fa molto la cosa. Devi usare il grasso nautico, quello col caldo si secca, quello usato io, e diventa praticamente un tappo, perché fa la crosta sopra e sotto rimane grasso. Cosa contiene, lo sai, grasso nautico? Capa, no, ma comunque già mi sono trovato bene questo qua. Sì, con quello grasso nautico credo che sia siliconico, contiene grasso al silicone, quella cosa lì. Comunque con l'acqua, anche forte, non esce. A prova di tempesta, eia. Bene, mi sa che adesso sgancio qua le CDR, l'ho silenziato, se no non riesco a seguire la discussione. Certo che senza mouse è un po' ostico, non c'ho posto per il mouse qua. È un tavolino, un maggiolino, come si chiama, ci sta giusto il computer e la bottiglia dell'acqua, boh. Che CDR hai comprato, le CDR? No, tutto online, Roma 4. Cioè, gratis, basta un computer o uno smartphone, non so mettere antenne, Gianfra. Non è la stessa cosa che ricevere con la propria antenna, però. Oggi era un bijou in 40 metri, c'era un saccaccio di segnali, qua in 27.0 invece, non c'è né propagazione. Lì, io vedo alcuni segnalini che spuntano a livello QRM. Quindi qualcosa c'è di sicuro, magari bassi non li ricevi, però c'è. 40 metri non ho controllato perché stavo giocarellando per vedere Bluetooth dove sono, esattamente a 2450, e poi fanno a destra e a sinistra perché come sai hanno i salti di frequenza. Poi hanno una potenza da distanza di 10 metri. Però come hai detto tu Gianfra, a livello QRM è quindi inutile, non è la propagazione che dico io. Ma se ti faccio ascoltare qualche cosetta ti spaventi. Può essere anche segnale 1, segnale 1 e mezzo, ma devi ascoltare la radio è la cosa più importante, di come arriva questa gente. Ma con le antenne tue dici? Cioè con tutto l'impianto antenna tuo, non roba online? Beh direi, online va bene fino a un certo punto, però poi altra cosa è la ricezione diretta, capito? Anche perché ti serve per valutare la qualità dell'antenna, tutto lì. Riprendi Antu, di quanto l'hai sollevata con l'antenna? Quasi un metro sollevata, è un metro, dai, già c'è un metro, ma è che un po' meglio ti arrivo lì in campagna, cioè lì da te, non so se sei in campagna o così. Sì, sono in campagna, abito in campagna. Sì, sulla linea rossa, purtroppo su questi apparati moderni non lo mettono il... hanno vari misuratori. Quello dell'S, dei punti S, è il più disgraziato. Su tutti gli altri ti danno il segnale in dB, però tu, come cosa è proprio stare a terra. Nell'altro si può mettere invece lo strumento analogico, c'è una presa speciale, c'è uno speciale, un jack, solo che non mi ricordo se ce l'ho uno di quei strumenti per dare controlli. Non lo so, però prima lampeggiava, adesso è fissa, quindi quanto è? 9.10, 9.20, boh. Guarda, ti faccio raffronto con Marco, parla tu. Conta che sono 10 watt però, Antonio mi deve dire quanti watt ha, se ne ha 4 io ne metto 4 e facciamo il confronto. Hola, mi senti? Allora, Antonio, tu arrivi poco, più basso di Marco. Marco, diciamo, c'ha due tacchette in più. Vabbè, fa niente. Adesso proviamo con i batti suoi. Aspetta, ma tu sei attaccato adesso? Facciamo la prova con 4 watt. Eia, ti accontento. Prova adesso 4 watt. Eia, aspetta che abbasso. 4, dunque io, siccome il filtro che mi ruba un watt, se ne metto 4 sono 3. Aspetta, grosso modo. Dovremmo esserci adesso, dovrebbero essere 4 watt all'uscita del filtro. Vedi un po' la differenza, parla anche tu Anto. Ah, mi senti? Io ce ne ho tutte e due a 4 watt adesso. Marco ti sotterra, ma tiene sempre lo suo segnale, tu sei calato di parecchio, diciamo. Sei sempre oltre il 9, però Marco rimane sempre più potente. E sono coi batti su dell'apparecchio, sono. La posizione, Antonio, influisce molto. Vediamo se abbasso ulteriormente mettendo, ecco, i 4 watt dell'apparato, il filtro me ne ruba uno, quindi 3 watt. Ecco, queste sono le condizioni che dovrei avere col 3009, le condizioni solite di lavoro mie. Vedi un po', Gianfranco. Ma stai usando lo smitter utile oppure LCD? Oh, gli è arrivato Claudio, adesso ci crepa tutto il segnale. Non crepa nessuno io. Cazzo, quando giri no, con Gianfranco, giuro di controllo, per barbarità. Mamma mia, come sto! Non è vero Claudio che stavamo parlando di altro. Il controllo è venuto dopo. Parlando di altro, no, di gnognò. L'ho fatta Marco, finalmente. Atlas 210X, guardati l'immagine, è bellissima, veramente bella. Già c'è roba da nome alieno, Atlas, vediamo un po'. Riprendi Claudio, dai. Claudio Petisella! No, fatte, vai al 20 Luca, non mi interessano discorsi di radio e quello che state dicendo, vai al 20 Luca. Atlas, modello? 210, 210X. Ah, vedo. Carina, non è niente male, adesso la ingrandisco, c'è anche un video, mamma mia, quella scala Pucci, vabbè, d'altronde. Ma quello già ce l'ha un misuratore di segnale, ingrandisciti lo smitter, quello è bellissimo, così vuole far dare controlli. Sì, sto vedendo, stato solido, F gain, dial set, mic gain, bande, rec, cal, trans, cv, vabbè. I modi di emissione cosa sono? Sarà SSB? Boh, non è A nemmeno M, no, vabbè. D'altronde in HF, vabbè. Qua non lo vedo, l'SSB di sicuro, tutto l'altro non si vede. Così è. Quindi a parità di potenza tu comunque vince sempre Marco, ovviamente. Ma dunque Marco, tu eri in un'altra zona, anche se siete tutti e due a vista comunque. Aspetta, sto guardando che c'è, mi pare un video, sì, più di uno forse. Ehi, Antonio, riprendi. Ma perché vedo... Boh, non capisco mai questa radio, non vedo picchi di modulazione, certo. Vediamo se Antonio c'è. Antonio? Ehi, allora qui ho al 20, dai. Ecco qua. Spento anche il coso. Queste giornate, c'è un silenzio di tomba fuori, di tomba e di tomba. Sì, portiamoci da questo 10 che è un canale che mi sta passa sul canale bassi, vediamo un po', sul canale 2 vediamo un po', che voglio fare un esperimento. Sì, ok. Vitella, attento Antonello, Porto Torre, ci ascolti Sassari. Attento Antonello, Porto Torre, ci ascolti Sassari. Vitella.